carnevale disingano, lasciai a casa per un giorno di guai, e ballai e gridai a mai, vestito da re, ma è finita anche per quest'anno. Carnevale disingano, quella ragazza mi lasciò sperare, mano in mano come ora, non so più dov'è, è finita anche per quest'anno. Era un canto solo, un cuore solo, un desiderio, stringere la mano di un amico, di un fratello, il carnevale è speranza, la gente torna dalla lontananza, la gente triste ride nella danza, la gente grande vive un'altra infanzia.